di no. Beh, ma non esci mai, Nathalie? Ti è passata la mal di schiena? Ancora no. E tu dove sei? E a casa, siamo usciti stamattina, abbiamo fatto commissioni, non abbiamo concluso niente perché questi uffici hanno sempre problemi, non funziona il computer, non funziona la rete, quindi non abbiamo concluso niente, dai. Aspetta che abbasso l'audio del televisore, che se no non ne capisco nulla. Eugenio, c'è anche tu. Buonasera. Veglia, sono contento che sei allegro, che stai cantando, molto nobile. Ti avete ascoltato Radio B2 sulle frequenze 27,75 MHz. Buonasera per le vostre dediche richieste. In AM, specificare. In AM, è vero, questo mi dica. La radio, CES. Per esempio, dicono, siccome ormai in AM non c'è più nessuno, no? Dai 500 kHz, no, quant'era? La radio AM, quella che finisce ai 1600. Siccome non c'è più nessuno là, si potrebbero fare piccole radio di quartiere, lo sai? Una volta vendevano anche i kit di ricetrasmettitori AM. Capito, radio di quartiere si possono fare. Con notizie di quartiere, roba del genere. Lo so, ma è un casino, radio è un casino. Servizio Rex Speaker. Ma chi è il pastona? Il distribuo c'è un moglio. Natalino, allora. Aspetta, è possibile che un colpo alla strega non passi dopo 3 giorni e più? Forse ci voleva qualche massaggio particolare. Ci sarà qualche nervo accavallato, mi. Vedi, per esempio l'antidolorifico è un conto, no? Agisce sul dolore, però se c'è un nervo accavallato bisogna riuscire a disaccavallarlo, no? Come dire, riuscire a scrocchiare il punto del dolore. Discopatia hai detto che non ne hai. E allora non è quello, è un nervo accavallato che fa male. Ah, non spedito? Bene, bene, 2 pacchi sono, 2 colli diversi. Sì, l'antenna è lunga un paio di metri, cioè la scatola dell'antenna grosso modo è un paio di metri. No, forse anche meno. E il cavo, vabbè, sarà una bella matassa, probabilmente ti hanno mandato anche la bobina, non lo so. Da me i 60 metri li avevano mandati con la bobina in legno grossa, sembrava una grossa spagnoletta, mi. Un cilindro, un tamburo proprio. Forse l'ho anche buttata, ma potevo tenerla dalla. Per avvolgere il cavo era utile. Ah, invece a Luca del Monte gli si è spaccato un pezzo, proprio gli si è rotta la plastica e non ho capito dove, e non teneva la portante, ha provato a incollarla però, non so quanto duri. E Claudio non è entrato ancora, sta ancora esultando dalla partita di ieri. Anch'io l'ho guardata. L'ho guardata per curiosità, caspita, dopo pochi minuti già hanno segnato. Poi altri minuti e il secondo gol. insomma in 20 minuti o un quarto d'ora hanno fatto due gol. E poi vabbè il terzo. Vabbè. Aspetta, Gnasussa 3-0. Ma tanto hanno perso lo stesso. E tu Eugenio, non te l'hai guardata la partita? Sto facendo l'amore tutta la notte. Ho sbagliato te. Eia, era in chiaro. La Juve ha perso 3-0. Ha vinto, cosa ha perso? Ha vinto 3-0. Hanno sussato gli spagnoli lì. No, già sto pensando che ho rifatta gente, come al solito. Sono rimasti fino alle 2 del mattino qua a casa. Italia e via. Oh mamma. Eia. E vediamo, sento Claudio. Io avevo già fame. Ci ho mangiato una scatoletta di tonno. Tanto per fare tanti pastomi. E poi ci abbiamo piselli con le uova. Uova e piselli, cioè, no? Mamma mia, le uova io le posso vedere. Babba, non c'è cosa più niente per me delle uova. Oh, eppure sono nutrienti, anzi per un atleta avrei pensato che eri mangiatore di uova. No, no, per niente, non le posso vedere. Ma tu sei vegetariano o vegano oppure? Ma non ci penso più. No, così bello mangiare. E io mangio molta carne, che mi serve per la palestra. Ah, però le uova ti fanno senso, dai. E pensa che c'è gente che se la mangia cruda le uova, cioè fa il buco nell'uovo sopra e sotto e se le ciuccia. E se le ciuccia crude, che schifo. Mamma mia, guarda, cambia il corso, non facevo più altre le locche. Invece cotta, vabbè, un altro conto. Sodo, fritto è molto buono. Con la sottiletta sopra, mi. Che si scioglie. In camicia, alla cocca anche buono. E no, non ti piacciono, dai. L'uovo può piacere o non piacere, ma credo piacessero a tutti quasi. Tranne i vegani, che dice i vegani non mangiano nemmeno uova. Tutti i prodotti fatti dagli animali non li mangiano. Forse manco il latte mangiano. Bevono. 3-3-3-3-3. Scommetto che ieri notte stavi ballando nudo, ogni giusta 3-0. Allora, tardi ci siamo proiettati. Ho lasciato a tutto un po' lavoro oggi che avevo un po' di cartaccio da fare. Ho uscito alle 4:30, sono un po' sdraiato, adesso mi sono messo in sesto. Buonasera a tutti, e adesso dobbiamo andare a Barcellona, però devono fare 6 loro. Capito? Se non vincere 4-0, perché non puoi salire a vincere 4-0, che la Juve non ruba io, no? C'è la difesa, e si è dimostrato che c'è la difesa, fin d'ora non l'hanno fatto, come prevedevo. Buonasera a todos, ciao Eugenio, Natalino e Marco, e chiunque fosse in agguato. E beh, Natalino, spedito? Bene, Mera, hai visto, l'ho mantenuto allora quello che hanno detto, perfetto. Quindi siamo spedito oggi, dovrebbe essere nella zona loro, quindi Genova, La Spezia, quelle zone lì. La Spezia è, allora domani dovrebbe essere a Cagliari, Sassari, dopo domani c'hai tutto. E se non senti, ti mette le cuffie. Non hai perso niente se non senti Eugenio. Io già ti sento, non ti preoccupare, che già ti sento. Va bene, Natali, un po' di pazienza, ci siamo spedito ancora un paio di giorni e poi siamo a cavallo, ci organizziamo per il lavoro. Avanti Marco. Eia, io la partita l'ho guardata ieri, guardata tutta. Come vedi non sono bindaccio. Caspita, a pochi minuti dall'inizio ha segnato il primo gol la Juve. Sembrava scatenata proprio. Poi c'era Buffon come portiere, quindi non mi preoccupavo più di tanto. Sì, segna di testa che mi dice, qua ci ho piazzato. Un bravissimo difensore, ma è anche, sa anche fare gol di testa, perché è un bel alto, capito? Ma io ero sicuro che vincesse, perché a Torino è difficile per tutti passare, e per la Juve in questo momento è in grande forma. C'è una difesa eccezionale, quella che ha preso meno gol di tutti, difende bene, quindi me l'ha detto anche il telecronista, che viene un po' in salita al Barcellona, perché la Juventus non è il Bayern, capito? Quindi, tocca la penna. Sono sicuro al 100%, guarda, riandiamo il 19 aprile a Barcellona, non prendiamo gol, è di 4 nuovi vasini, ma nuovi vasini in più. Vinceranno sicuramente in casa, se vincono, non lo so, un botto che abbiamo in fila, penso che abbiamo uno in casa. Vabbè, comunque, banda le ciance, adesso godiamoci questa vittoria e godiamoci che siamo lì, in Champions ci siamo sempre, in Coppa Italia ci siamo, in campionato siamo primi assoluti e non c'è trippa per gatti, quindi va bene così. Neanche a Barcellona ricordo, te lo garantisco, perché la Juve c'è una difesa micidiale, non micidiale al Real, l'attacco che non fa, con quell'attacco lì, con quel modo lì, lei ha sfasciato il culo a tutti, non hai capito, non temiamo nessuno, ho preso il Real Madrid e ho preso Barcellona, wow. Molto bene, molto bene. Sì, mi è piaciuto, tanto film non ce n'erano, non c'era niente da guardare, ho detto beh, mi attacco alla partita, è finita anche presto, è iniziata a presto, è finita presto. Bene, vai Natalia. Cosa c'è, Capacisi? No, un coltello dei Navy Seals, tattico, forse mi vuole accoltellare. Intendi come ti vai a rispondere a te? Boh, mi sei curioso me. Allora no, non hanno coinciso gli orari, non hanno coinciso i capacisi. Scusi, è una giornata tutti attaccamenti capacisi. Ma che? E se no mi sono corruti. Che vento è oggi? Il vento dei corruti è. E qual è il vento dei corruti? Cos'è? Levante? Grecare, la Levante. Ah, Grecare, è vero che si muove un po' a destra, un po' a sinistra. E sembra il Grecare, infatti. Dopo il Grecare, il maestrale. Adesso va a finire che quando mettiamo l'antenna a Natalino c'era la tempesta. Allora, se uno è a Natalino, non ti preoccupare, te lo protetto dal muro. Ci vuole una bella maestralata, fammi che ci un po' di torri. Ma quando la piazziamo vento non ce ne deve essere, se no non riusciamo. Marco, non ho visto niente come piazziamo le antenne noi. Quella di Marco, eravamo in 5 di Gianni, non ce la facevamo a mantenerla, ha piegato anche il tubo. Capito? Se non agganciamo le tiranti, se agganciamo un muro, tutte e quattro, ci porta anche a noi. Cazzo, stavamo piazzando l'antenna, una bella giornata, arrivano, poi arriva questo maestrale all'improvviso, Sant'Antonio mio. Ha giù mai di bocca a noi all'antenna. Ciao, oggi, capito Marco? Otteniamo il vento noi. Ehi, ma lì eravate sul tetto. Noi siamo nel vicolo lì, non arriva aria lì. Sì, magari circola un po', ma... Poi con Pomponio in due lì, noi l'abbiamo alzata l'antenna, bassa un po', lui la tirava dal gabbiotto, no? La tirava dal gabbiotto, poi ha sollevato gli elementi, l'elemento uno viene da alzare, che il palo era... i due elementi, capito? Quindi la sollevata, bello, fissato tutto, bello, bello. Ok, qua devo pulire un po', devo mettere, mannaggia, devo sempre far roba qua. Qui nel baracchino non posso stare quasi. Ci arriva, sempre grandici. Ora. Il microfono è andato in ceppa. Vabbè, e cosa ci vuoi fare? Non ti preoccupare. Comunque, niente, questo weekend è un'altra cosa, vabbè, ci siamo dimenticati. Speriamo che non coincida con la veduta di mia zia qua. Per venire appena dopo Pasqua a fare le pulizie, aiutarci a buttare roba, ci metteremo giorni e giorni. Quindi speriamo che non coincida con la piazzata di antenna di Natalino, perché qua poi con la rivalino non è che posso andare, devo aiutarla. Sarà, mamma mia, che incubo. Non ti preoccupare, se ci sei ci fa piacere, ci dà una mano, se non ci sei non ti preoccupare. C'è anche Massimiliano, tu devi avvisare, c'è Antonello, c'è di gente. Magari vi trovate in 20 persone lì, dice cosa c'è qua? Vi trovano in 20 sollevando un'antenna e la gente sta guardando, dice ma cosa c'è qua? Cosa è successo? Ma tutta scena mi mette non vai dentro, basta non rompere l'anima, se no ci metto poco, io capite. Ma io mani un picco in macchia, se so che fa strage. Così senti subito il vicino che si lamenta appena sollevate l'antenna. Ah, non vedo male, vedo male la televisione, non vedo più la televisione, è colpa dell'antenna di Natalino. Occhiali, si può, non la vedi. No, non penso ne abbia questi problemi Natalino. No, ma lo dicono apposta, capito? Come qua. Che dicevano, ah, io vedo male la televisione, e anch'io la vedo male, come dire che la colpa era mia. Lo dicono per fare gli sbruffoni, gli spacconi, capito? Invece poi non disturbo io qua. Qua nel palazzo non disturbo, assolutamente. Le antenne sono tutte fronte a Monte Oro, la mia antenna è dietro e più in alto, quindi c'ho sempre 4 watt, c'ho l'apparecchio omologato, quindi perché dovrebbe disturbare? Capito, però lo fanno giusto per sfregio, ti dicono, ah, io vedo male la TV, capito, come dire, è l'antenna che disturba, antenna, nota, ti fanno dire che l'antenna che disturba, non che sono io che disturbo, trasmettendo, gente ignorante. Ma adesso me l'hai mandato? Oh, a me non mi mandate niente perché mi sono fatto la promozione. Quindi non posso trasmettere, non riceve, già posso ricevere su WhatsApp, penso a trasmettere, non posso trasmettere, devo farla per forza domani, pensavo di farla oggi, facevo fare domani, ma non è male, mi è scaduto internet. Eccomi qua ragazzi, bello squillante, bello allegro, splendido come il cielo a primavera, sono io. Esce più forte dalla macchina che la casa sua. Se Massimiliano non ci crede, ma cosa vuoi ti dica? Ora è così, rimane così, chi mi ascolta bene, mi ascolta bene, chi mi ascolta male, sono pure i suoi, cambio! Non io ti ascolto bene, il problema è quello. Se quasi no, per radio 5 squillante, bella, forte, brava, cici e cocco. Mi sto accingendo a salire a Sierra Sierra! Cambio! Non sempre a Sierra Sierra, sì, tu. Racconti io, fammi. Mi devo incontrare con Musera, cambio! Ah, allora va bene. Lo gli hai mandato a Marco Antoni? Una fotografia gli ha mandato. Mamma mia, come sto? Media, non fanno che c'era la barra. altro picco. Vediamo che si stacca Maurizio. Io lo vedo. Cioè, ti serve un wattmetro di linea, da stazione? Un wattmetro, watt. Come si aspetta? Lo pongo, lo fa l'indicazione. Tutti in terra, no? Bello qui. Ce l'hai presente il W131, Natali? Non ho mai visto questo strumento. Uguale al W131, doppio, uguale, preciso, identico. Solo che, anche che, amplificatore è un wattmetro. Grande quanto il W131. Grande, un bel wattmetro. 10 watt, 100 watt, 1 kilowatt. Solo 27, capito? Fosse stato 0,30 l'avrei tenuto. Sì, a 27 fa allora. 27 fa. Sì. È un modello 500 KDV. Guardate lì, è bello grande. Bello nuovo. Questo non si vediamo, mi è anche piaciuto. È uguale a 231. 50 euro sto vendendo. E si può prendere se c'è nuovo, capito? Nuovo. No, io non faccio niente, lui. Non ho ottenuto. Ma ci vedo per andare al mare. Adesso te lo mando io un coltello, eh? Altro che Shields. Coltello, che coltello è? Ha giù capito. C'è che vuoi prendere il coltello da Rambo? C'è, ce l'ha? Il coltello uguale a quello di John Rambo? Cosa diceva? Ti è un coltello di Rambo? Cosa si fa? Io faccio la collezione. Mi piace un bel. A colazione ti piace? Ho capito. Allora, mi dico a Natalino, gli ho tirato, guarda, a colazione. Natalino, il coltello uguale a quello di Rambo, ce l'hai? Dei Marins. Oggi lo vuoi allora quello strumento? Mi hanno fatto un po' di roba da prendere, lo vuoi? Ok, non me la faccio nulla, non me la faccio. Sì, non la radio te lo pone, te lo pone in camera da letto. Bello, io non l'avevo mai visto. È uguale alla 1131. È la testa G, è bello grande. Anche provato, è anche abbastanza preciso. No, non lo conoscevo. Va bene, già rimane i fili. Marco, cosa stai facendo? Stamattina ho visto già nelle 7:30, portando il cane. Io sono andato a fare le analisi dal dottor Salis, su cui caseggia. Io sono arrivato, Claudio. Sono portato a casa, sono portato il furgone, boh, stop. Insomma, non si vede niente, no, non è che ti cambia la vita. Quello è uno strumento, ci vuole sempre in stazione, no? Controllare sempre se tutto a posto. Natalino, attento! Qua ti non puoi sentire, l'altro giorno stavamo parlando. Natalino! Ti sento bene anch'io, Dai, Eugenio, come sei forte! Quando ti chiamo rispondimi, no? Sono un'ora, Marco! No, sono nell'altra stanza. Non c'ho più credito per internet, capito? È lungo da spiegare. Funziona solo nell'altra stanza. Dimmi tutto. Niente, riprendi, di qualcosa, boh. Non lo so, cosa stai mangiando? No, nulla, ancora no, devo pranzare ancora. Ebbene, Natalino, ti è piaciuto il mio pulisci unghie, il coltellino pulisci unghie, sì? Qua scioccato è rimasto, non mi risponde neanche più. Claudio? E al telefono! Natalino, ma il coltello con il gambo, ce l'hai? Sì che ce l'ho. C'è un coltellaccio bello, tipo Rambo 3, non originale però. Ma non lo vendi quello? No, quello è, aspetta, come dire, quello è una reliquia. Vuoi una foto? Mandala. Natalì, e tu non ce l'hai? No, con la lama da una scatta, mi hanno regalato, bellissima. Quello va bene, io ho più di una, ne ho solo una con la lama da una scatta, mi ha regalata mia moglie, bellissima, fatta a mano nel compleanno, ma bella veramente. Mi ha pagata un sacco di soldi. E mi serve il coltellaccio, quello uguale a quello di Rambo, per tenermelo in camper, capito? Eccomi! Natalia, vabbè, già te lo dico in persona. Cosa li fai vedere? La chicchia? Eia, comunque è bello quel coltello, è di fatto artigianalmente spagnolo, fu fatto in Spagna. Eugenio, l'hai ricevuto? Sì, la sto guidando. Eia, quando ti fermi guardalo. Col coltello svedese, Mora, il Companion, Mora Companion, in acciaio sandwich, quello è molto comodo, lama fissa, va più che bene. Poi ne ho vari, coltellini tipo, che coltellini del cavolo, tipo sopravvivenza, che non valgono niente però, capito. Sono molto più piccoli quelli della sopravvivenza, quell'altro è enorme. Quello che ti ho mandato in foto. Quelli da sopravvivenza classici, no? Quelli che hanno la roba nel fodero, no? La bussola, sono molto più piccoli. Quale, Natalia? Ripeti, non ti ho sentito. Allora, di Bear Grylls a me piaceva l'ultimo, il più grande, si chiama Ultimate Pro Fixed Blade, mi pare, una cosa, l'ultimo uscito, quello più grande, e gli hanno fatto anche il fodero diverso, quello è bello, solo sai cos'è, che sono sai perché non l'ho comprato? Perché è un acciaio strano. Sono fatti in Cina quelli, lo sai, anche se poi Berglisham è americana la linea, sono fatti in Cina ed è un acciaio al carbonio che non usa nessun altro, è stata una scelta loro, mi pare c'è anche molibdeno, vanadio, una cosa, è tipo metallo di cassaforte, amico. Eia. Sì, a tagliare tagliano, caspita se tagliano. Poi mi sono preso da poco il, ne da tanto che lo volevo, l'Opinel numero 8 in acciaio inox. L'Opinel, quello con il blocco per la lama, no? E sai che era così affilato che mi ci potevo fare la barba. Guarda, l'ho preso da Decathlon, 8,99, quindi 9 euro, numero 8, c'è una lama da tipo 9 centimetri, o 9 o 10, non lo so, va bene quando fai le scampagnate, per tagliarti il panino, per affettare salame, formaggio, capito, solite cose. E invece, quello di Bear Grylls, quello grosso che dico io, che c'ha uno spessore notevole, va bene per fare buttoning, che serve per tagliare i piccoli tronchetti, lo tagli con la lama, batti la lama con un altro pezzo di legno e ti taglia un ramo grosso, un tronchetto in due, capito? Io sono arrivato ragazzi, a tra un po', dai che devo scendere. Ah, sei arrivato Eugenio? Sì, sono arrivato, devo scendere, dai, ci sentiamo più tardi, ok? Come vi spiego questa commissione? Ehi, sempre forte, mi 9.25. Io sono sempre forte, anche da portatore, sono sempre forte. Ah, arriva il Chivi, arriva di ti copio tutto. Ma lo sapete a me dove sono? Sarai a Rezzedo. Ma a Rezzedo, sono qua da Decathlon, nel parcheggio di Decathlon, giù. Giù o su, sì? Giù! 9.25, sì. Ehi, anche qua, mi pare un po' troppo forte. Non ci crede Massimiliano, è lineare. Sì, un bel forte, o è quell'antenna, non lo so. Sto un bel forte, lo sento io. Sì, anche qua 9.25 arriva, infatti ho detto, o è in zona, tipo piazza via Roma, no, quella zona lì, via Orio Umberto. No, sono da Decathlon, adesso devo scendere, devo fare una commissione, ciao. Ciao. Vabbè, tu ce l'hai più vicino, Marco. Comunque qua 9.25 lo stesso, perché io lo vedo. Ma era detto che non vi credo io. Tu hai detto non vi credo che ci dice forte. Cosa l'hai detto, scherzando? No, io veramente non ho detto così forte. Hai, forse non ti sei lavato bene le orecchie, non lo so. E hai detto che eri scendi magri, tutto abbrutto. Non ho detto che non usciva forte. Ah, allora capito male, scusi, Non vergo niente. È impressionante, è partito da casa sua a Santiago Onofre. Da casa sua, proprio dall'uscita che era Santiago Onofre. Ha fatto tutta la 131 sempre a Santiago Onofre. Non è lineare, non è nuda. Allora era Decathlon. Deve tirare il culo. 9.25 arrivo. Ciao Valì, immaginati se si mette il B550. Gappa, dai, non riprendo più, vi saluto a tutti, ciao, buona serata. E siamo andati. Fammi la doccia, ciao. Vabbè, vai a fare la doccia. Via il fatto, la va di sotto. Claudio, l'hai visto o no il coltellino? No, non posso, non me l'hanno mandato a me, non lo so se ricevo su WhatsApp, c'ho il coso scaduto. No, non ricevo su WhatsApp, ricevo solo le chiamate, infatti mi ero al telefono con un collega. Questo è aziendale, io non lo posso caricare, lo caricano domani mattina, capite? Ciao Vale, buonasera, ben sentito. Buonasera, tu sei incantato Boccazzi con Decathlon. Decathlon, a pigliare il culo. Se non riesco a dirlo, capito, devono essere i baffi che mi hanno fastidio. Ma dov'è la cosa? Eugenio era a Sassari, alla Decathlon. No, per dire, stava arrivando bene qua, eh. Che la Claudio ha la lingua impastata perché ancora è emozionato per la partita di ieri. Dai, hanno giocato bene. Filippo si è pure ubriciato. Non ci credo, poverino. Allora, quando segna io vedo che si emoziona, se la fa addosso poverino. Gli ho messo la... il fazzoletto della Juventus al collo, ho detto stai fermo lì, guarda la partita, come io ho risultato, lui. Ma Claudio, già non sei come quelli sfegatati che si mettono la voce dalla finestra, no? Gol! Gol! Che ne buttano la casa da quando segna Juve. No, guarda, io sono al secondo, al primo sotto c'è un Juventino, sopra c'è un Juventino, a fianco c'è un Juventino. Tu immaginati quando ha segnato di pala ai primi minuti cosa è successo in questo palazzo, capito? Anche le tapparelle si sono aperte da sole. Ce lo credo che si è pisciato Filippo. Claudio, poi preparami la radio per passo a prendere la mia, che non devi dire che cosa, lo dico a me, non all'altro, un peso. Ciao. Non ho capito niente. Ho detto, quando devi dire qualche cosa, dillo a me, non agli altri. Preparami la radio che sto passando a prenderla. No. No, non commetto, Massimiliano. Chiamami al telefono e dimmi qualcosa. Non faccio un peso, cosa vuoi dire? Cazzo, boh. E come si mette esaurito? Ma passi! Oh! Ehi, ti sto chiamando! Cazzo di aro, boh, chiamate per farmi degli incubi, Duca! Chiamami che non ti posso chiamare, capo e bugnetta! Cosa hai detto, Valè? Cosa ho detto? Contro? Ehi, non ho capito cosa hai detto poco fa. Ho detto contro. E come? Te l'ho detto se l'ha voi, mi sta venendo il padrone a prendersela e non l'ha voi, boh! Ma che cosa? Cosa stai vendendo? Porra! E gli vuole andare a voto? Cosa stai vendendo? Adesso rispondo al padrone, ciao! Non sarà il Telsat, no? Bubu, cose misteriose, Valerio! Non lo so cosa sta avvenendo, forse il Telsat, non lo so, non lo so! Qualche turbo, non lo so! Non lo so, io ho sentito quel Massimiliano che sta andando a prenderlo! Io sono sento cose del genere, compro. Che ore saranno? Avete un orologio? Io qua devo fare un po' di pulizia prima di pappare, devo liberare il tavolo. E non solo. Ma c'ho per 20? Caspita, è quasi ora di cena, di pranzo. Quasi ora di pranzo, Vai a pranzare. Aspetta, Valerio ha parlato sotto. Valerio, dimmi. No, vai a pranzare. Ma che c'è? Cosa c'è? Natalino. Sì, sì. Non lo senti? No, mi dispiace, non lo sento. Salutamelo. Via. Ti saluti da Valerio, Natalino. E fra poco Natalino lo sentirai anche bene. Si sta per piazzare l'antenna su. Cambierà tutto. Speriamo bene, dai. E aspetta Natalizia, lo sovrannodoli sempre, senza volere. Eia, contraccambiati salutimi. Eia, grazie Marco. Puoi mettere a lineare da 1000 watt. Cosa è successo? Ho visto un lampo. Ah, tu l'hai spenta. Ho visto una specie di lampo. Mi sono spaventato. Ricordati che quell'antenna regge 500 watt di picco. Picco in banda laterale. Continui ne puoi dare 150. Solo 150 continui, non di più. Ovali. Oh, dimmi. L'ho trovata la foto della radio, non l'hai vista? Che radio? Sì, veramente si è detto un incoglionito. Ma, terza. Ehi, quella base, che mai non la voglio. Non mi ricordo. Sì, mamma mia, come sto. Hai visto che si è passato in occhi, a vederla? Ma sai che non mi ricordo tutto, veramente, non mi ricordo, l'hai riconosciuto o no? Allora siamo in due, Mick. Sì, la vista di, la vita, l'ho fatta vedere anche a Cesare. Sant'Antonio mio. Sono preoccupato, Evale, sono preoccupato. Eia, eia. Vabbè, non era, vuol dire che non era di suo interesse, dai. Se no, se non se l'è ricordata vuol dire che no, non interessava più di tanto. Ah, ma quindi non l'avevi comprata tu, era in vendita quella radio? Gira gira, mi compareggio un baracchino io, se me ne faccio, ma se la roba leggio qua, me ne hanno portato anche altro, c'è uno scatolone Antonio Grobe, di roba da vendere che mi deve portare, capito? Ne ho un bel di roba che mi danno da vendere, no, qualcosa la vendo sempre, la scambio, ma no, io non me ne faccio niente, il baracchino, se me ne faccio il baracchino. C'ho il mio baracchino, no, vedi? Poi da KF, le due lì basta, io non ho tolto tutte le cose che non mi servono, non devo fare mercatino come dice Massimiliano, capito? Assolutamente. Tutti i vintage, li ho tolti, li ho fatti, li ho scambiati, li ho dati quasi tutti a Roberto Quadrato, capito? Non c'ho più niente di roba vecchia, tutta roba nuova. Non il tuo baracchino che c'ho, che non posso dare, perché non lo posso dare, perché non lo puoi regalare, un baracchino che costa un sacco di soldi questo, capito, il DAC, e basta, altri baracchini non ne ho. Ehi, ehi, va bene, fra poco si mangia, mi sto anche, dovrei, mannaggia, dovevo mettere a posto qua, un caos, il tavolo, il tavolino è un caos, sono sempre io che lo faccio così. Adesso arrivo qualcosa, dai. Signori, un attimino di Quadrix, rimango in Quadrix, dai. Riprendete voi che devo ripulire il tavolo. Vabbè, tutti i pari di gente. Sono qua io. Marco è andato a fare la pulizia. Oh, pulizia? Vabbè. Siamo a fare la pulizia. Posso dicere, mamma mia, è normale. GLS? Allora GLS direttamente, non so se fa Cagliari, ma se faccia direttamente Sassari, quindi ce l'hai domani. Quindi se in transito la Spezia può scrivermi anche domani. GLS è un bel veloce. K del rosmetro. Beh certo, una spedizione potevano mandare obbligatoriamente. Sì, sì, il corriere te lo danno la spedizione. Capito? E così adesso funziona così. Ehi, ehi, non me la funghi sul capo di Bugnetta e Massimiliano. Di buffonato un cazzo, c'è la buona bugnetta che c'è la pappiappa, cosa stavo dicendo, mi lasci mi preparare, no, la lasciamo, scendo a farmi un giretto, no, deve venire qua che deve portare, vamo del sasso a fare commissione, passa qua, trova. Tanto devo portare anche il cane, quindi cuciniamo assieme. No, dopo, dopo. Adesso sono qua. Bene Meda, bene Meda. Gianni non è entrato, che ne so, si è mezza. Gianni! Ho entrato la mattina, questo presto, portando il cane. Stracco, stracco morto. Sono un QRM allucinante oggi. 1, 2, 3 stella. Vabbè, siete morti. Io sono qua. rimasto qua, dai, ho finito di mangiare il grosso, magari dopo mangio qualcos'altro, dai. Il grosso, l'hai mangiato la ghiaia? No, uova con piselli, poi pomodorini e insalata, una fetta di melone, quello retatto e un budinetto. Cosa te ne fai? Cosa te ne fai? Cosa te ne fai? È poco, mi ho mangiato poco, infatti sono deperito, poverino. Poverino vivo sempre. E poi mangio qualcos'altro, dai. Tanto la serata è lunga, cosa posso fare? Su tutta la sera devo fare qualcosa, no? Beh, certo che sì, di sì, di sì, che sì. E beh, Eugenio, è sempre da Decathlon, eh? Sì, da Decathlon. Decathlon, sì. Ha un bel di roba. Decathlon, una roba per la vita all'aria aperta, per il campeggio, per tutti i tipi di sport. Trekking, arceria, tutto, tutto, di tutto e di più. C'ha un bel di zaini, bel di anche roba per campeggio, no, ripeto, tende, di tutto. Di tutto e di più. È molto bello come negozio. Se ti serve qualcosa lì te lo trovi sempre, il coltellino Opinel l'ho preso là, quello piccolo. Che devi fare? Usciare un buco? No, serve sempre quando vai in campagna, quando fai scampagnate, anche per tagliare il pane, capito? Per sbucciare la frutta, ha mille usi. Filippo, no, cosa c'è? La gente guarda con Massimiliano, tutte le volte nelle mani addosso. Eia, ma devi dargli da mangiare, come mai è lì? No, ci ho mangiato 10 minuti fa. E Davide sta sempre qua, vuol per via sicuro che la scrivania vicino a me. Capito? Sentiamo ancora, Spero che mia moglie non trova gli occhiali. Eia. Va bene, sta lì. Eia. Comunque grazie per il pensiero e di quel coltello, però già sono abbastanza munito, dai, non c'è bisogno. Tienilo tu che ti torna utile per caccia, avevi detto. Un po' per tutto, dai. Ma campo, che campo? Scout, che campo? A campo di tiro. Eia. Che poi alla fine si usano poco, cioè dipende dalle scampagnate che si fanno. Vediamo adesso quest'estate, cerco di organizzarmi bene. E quindi stavi dicendo? No, nulla, dai. Vabbè, spenti siete, fa vedete un po' voi. Adesso mi viene l'abbiocco, mi del dopo mangiato. Sento che il sangue se ne va, defluisce dal cervello e affluisce tutto allo stomaco. Ah, così è. Allora. Poi per me che ho la pressione bassa, a me, te lo senti ancora di più, capito? Il sangue affluisce molto allo stomaco e ti viene questa sonnolenza un po', no? Sonnolenza, chiamiamola, dai. Chiamiamola sonnolenza, lo vuoi chiamare? Ehi, l'abbiocco lo chiamavo, no, l'abbiocco. Non c'è più Valerio, no? Non so, l'abbacchio ti è venuto, l'abbacchio. Ah, a proposito dell'abbacchio, ho visto Berlusconi, si è messo adesso a levare bognellini, di del latte da bere. Cioè di botto è diventato animalista adesso, boh. Come ha detto quello lì che fa l'imitatore, prima si dedicava alle porcelline, adesso si dedica agli agnelli. Si sta andando un bicchiere in porra. Non so perché questa manovra di farci vedere allattando gli agnellini, tutto, boh. Sarà l'incoglionimento dell'anzianità, boh. Adesso ci vuole far vedere animalista, forse per fare colpo sulle persone, non lo so. Forse per essere eletto, cosa ne so. Oh, tra lui e quell'altra, quella con i capelli rossi, come si chiama? Quella molto animalista. Buona rete anche, non mi viene il nome. Quella politica. Santanchè? No, quella che è animalista. Capelli rossi, mi. Ah, ho capito. Non ho messo il nome, grosso mio. Non mi viene il nome, anche quella fissata. Cioè adesso hanno più diritti gli animali degli uomini, se ti fidi. Vabbè. Ho detto Valeria, non c'è più, ha chiuso? Sto dicendo, alla Brambilla. Sì, Brambilla, esatto. Animalista, perde il tempo di Dio. Sì, animale è quella, Una bella troiona, Sì, grandissima sciocchiatrice. Una bottarella gliela darei anche alla Brambilla, Sì, sa che è lei che tiene la bottarella a te, non tu a lei. Eia. Ehi, anche la Santanchè comunque merita, una bottarella anche alla Santanchè gliel'avrei data. Ma poi a quella tra biondina, come si chiama? Mi sfugge il nome, giovane, molto carina. Già si salvano, alcune si salvano. Alla Mussolini, due botte alla Mussolini. Alla Meloni, e allora? A Meloni, a Bundrini. Sì, c'è una bella donna alla Camera dei Deputati, non ti preoccupare. Eia, le deputate. Come dicevo io, poi a tutte queste sciampiste che sono entrate al Parlamento senza... Ma... Vabbè, io minimo farei entrare gente che è laureata in leggi. Minimo. Non leggi, scusa. Fare entrare al Parlamento gente che è laureata almeno in scienze politiche, almeno una laurea in scienze politiche, capito? Non per simpatie, per tutte quelle di Berlusconi, quelle sciampiste, quelle pompiste, non so come chiamarle, pompiste si può dire? Sì, pompiere. Le pompiste, oi, poi hanno fatto la battuta... La Striscia Notizia dice, a proposito di Berlusconi con l'agnellino, ma non sanno, dice, l'agnello di Mubarak, è come la storia di Rubi che era la nipote di Mubarak. Ha fatto un po' quel casino, no, e comunque vedi, lo fai tu e ti mettono in galera, mi metto in galera che c'è Mubarak, c'è il corona che non ha fatto nulla, solo perché gli hanno trovato soldi, i soldi erano i suoi, mica li ha rubati. Quello che ruba veramente non lo mettono in galera. Sì, con Corona... Aspetta. Con Corona hanno avuto un accanimento particolare, forse per dargli una lezione perché è spavaldo, però... Sì, quelli, i soldi erano al limite, potevano dargli un po' di multa per evasione fiscale, tutto lì. Non ho capito perché l'abbiano messo in galera, i soldi erano suoi. Avrà solo evaso, passava a dargli la sanatoria per riscattare i soldi, tutto lì. No, l'hanno voluto mettere in galera. Infatti te lo sto dicendo, io non c'ho niente con Corona. Non mi è simpatico per il suo modo di fare, ma comunque non ha rubato niente, quindi non doveva andare in galera. Non ha fatto niente, nulla ha fatto, capito? Ha fatto le cose punibili con delle multe. Con delle sciocchezze, capite? Invece è buttato in galera. E quando è finita? No. Invece quelli che sono al governo, che rubano, che mangiano le spalle degli altri, quelli non vanno a finire in galera però. Aspetta che l'ammazzino, che sta uccidendo i soldi a tre segreti. Ciao qua. Ciao Marco e ciao Valerio, credo che ci sia altro, avanti Isa. Ciao Giù, sì, però per quello l'hanno assolto perché aveva ritirato la denuncia a Tresì, capito? E per il resto che l'hanno condannato. Cosa c'è, di nuovo la gola? Sì, sono tutta la settimana a letto, infatti. Infatti non è che ancora non sono guarito bene, però sono migliorato abbastanza. Tosse, stato e dolore hanno finito e tutte e chi più ne ha più ne metta. Ciao Natalia, che tu ci sei un Ok, ciao Natale. Pure per quanto riguarda il discorso Berlusconi che hai fatto con Marco, prima ha rovinato l'Italia con la sua politica, adesso vuole rovinare il mondo agropastorale perché sta cercando di invogliare la gente a non mangiare più carne, e dunque ti puoi immaginare che razza di danno economico farebbe. No, adesso sta diventando anche lui vegano, mi vedrai. Ma quante storie che si va lì, va dare lì allattando, non lo so che manovra sia, forse vuole entrare nelle grazie della maggior parte delle persone, sono tutti animalisti, no? Per Corona, boh, non lo so, gli hanno trovato questi soldi e quindi erano suoi, c'erano stati lavorati. Se era evasione fiscale, bastava fargli pagare la sanatoria su quei soldi, non c'era bisogno di farlo. Però sai, certi giudici, quando trovano uno spavaldo, diciamo che glielo vogliono proprio far pagare, gli vogliono dare una lezione, tutto lì. Ah, Trezeguet addirittura aveva ritirato la denuncia, caspita, non, questo non lo sapevo, non me lo ricordavo. Sì, Corona lo vogliono punire per la sua arroganza, diciamo, capito? Però ci sarebbero molti politici da mettere al muro e fucilare, detto tra noi, no, da fare un colpo di Stato, mettere al muro e fucilare tutti, altro è Corona. Ho capito. Lui che incolpa tanta gente, non lo so io, adesso ha incolpato il fidanzato della ex moglie che gli ha messo la bomba sotto casa, la bomba carta sotto casa. Ha incolpato Belen che facciava insieme a lui, ma è fatto, sarà bullo quello che vuoi, ma intanto fa danno alle persone, non è uno scherzo, non si può, dai, non si può accettare. E poi era stato condannato, era scappato, non si era presentato per parecchissimi giorni. Che cosa può essere un evento del genere? Per me è un delinquente e basta. Perché sono tutti gelosi qui, detenuti. Ma che ha fatto? Visto che era un bell'uomo, così dicono perlomeno. Certi personaggi lo consideravano bello. Attenzione che oltre che il visone non gli abbiano fatto il cederone pure me. Tutti i denti ne hanno tolto. Come Claudio? Tutti i denti ne hanno tolto. Ciao Ventiera, ciao. Tutti i denti ne hanno tolto. Ci sarei da pigliare la regione natalina, ho picchiato forte, hai capito? La caccia a bocca, ho picchiato forte, i 5 sci erano, ho picchiato forte, sarà ventiera, non è più denti su. Oh, e che senso ha? Cosa gliene frega? Gli altri delinquenti sono delinquenti peggio di lui, allora perché l'hanno picchiato? Per invidia, per cosa? Perché dice che era la bocca più baciata d'Italia. Ah, e quindi gli hanno sfasciata la bocca, così, Così hanno detto. Vabbè, comunque sì, è un po' troppo turbolento come tipo. Pure solo i soldi falsi, un bel di roba ha fatto. Ha combinato. Ma c'è gente che ha combinato roba come lui, che ha truffato ed è sempre fuori, detto tra noi. Quelli del crack delle banche che hanno fregato tutti i soldi, che hanno bruciato tutti i soldi ai risparmiatori che magari sono fuori, lasciamo perdere. Lui lo vogliono punire perché è stravagante, capito? Perché è un po' sbruffoncello. I 2 milioni e mezzo che gli hanno trovato nascosti nel controsoffitto da dove li hanno fatti. E si pensa che siano il capo dello spaccio quello, sicché si può immaginare che elemento è. Ma piacere, io non l'avrei fatto fare nemmeno un giorno di galera, l'avrei subito ammazzato per come l'ho penso io. Ma hai visto giù 2 milioni e mezzo di euro, 30 la borsa, 5 miliardi in contanti c'avevo. Appunto, quello è quello che hanno trovato, poi ce ne sono altre 700.000 mi sembra, non so dove, in una città straniera. Non è farina di valuti, amici, è delinquente e basta, è inutile compiangerlo. Io questa gente non ne ho proprio nessunissima compassione, perché c'è gente che ha rubato una mela per pura necessità di fame, ed è in carcere da anni, è lui che ha combinato di tutto, non deve scontare, ma vogliamo scherzare. Già sconta, già sconta. Ciao non esce così facilmente, no? C'è tutti gli aggravanti, gli hanno dato una precondanna e noi lo si fa, no? Non è così fa, no, noi stavamo parlando praticamente, sì, non è un personaggio serio e sinceramente parlando a me non mi è che simpatico, però dico, in fragante è reato, c'è molta gente che ha combinato più cose di lui, però non lo mettono in galera, capito? Tipo politici, non solo perché c'è una copertura, lui chiaramente ha fatto quello che ha fatto, però non ha ammazzato nessuno, capito? Ci avrà rubato, avrà fatto, che ancora è in fase di accertamento, dove arrivano questi soldi, ancora non si sa, però lui è dentro, mentre invece altri politici non sono dentro, pure ce n'è che hanno rubato, più di lui e quanto è lui. Già lo sappiamo, quelli che hanno fatto le leggi a loro favore, giustamente quelli sono protetti, non si sa, è solo quello. Ma adesso prendi il fatto dell'accusa che hanno fatto al padre di Rinzi, un ufficiale dei carabinieri che l'aveva accusato che lui faceva parte della Consip, che prendeva le tangenti del lavoro che veniva ordinato dallo Stato, ma punendo Remo, ma cosa da fare so? Non credo che un ufficiale così abbia necessità di fare queste cose con quello che guadagna, no? Il problema è che ho smentito perché stavo parlando di Renzi del figlio, non di lui, quindi hanno preso battato Barazzotta, per così dire, capito? Quindi, e poi hanno detto altre cose, è una persona abbastanza seria, non ha mai stato in mezzo a niente, capito? E quindi chi è che l'ha accusato? 5 Stelle? A tutto, se tu vuoi lasciare infangare la gente così, ma puoi scherzare? Ma questa gente hanno sbagliato, devono pagare, dice ma è stato un errore, ma te ne rendi conto di quello che hai combinato con la persona? E non è poco, no? Poi ne ho sentito tanti altri, proprio ieri notte a TV 7, cioè a Canale 7, e ne hanno parlato di cose, se sapessi quante ce ne sono coperte e nascoste che la gente ignora completamente. Bene, però sono sempre politici che sono coperti, capito? Sono i politici. Gli altri invece ne mettono un po' la brutto, vabbè. Perché c'erano l'immunità parlamentare, perché non provano a togliere l'immunità parlamentare, avessi tarretta in culo a te, se hai fatto un reato, hai commesso un reato, è giusto che paghi come pagano le persone civili, ma solo perché tu sei un parlamentare non devi pagare, non è giusto, capito, tutto qua, avanti Natali. Prenderli e metterli in un fondo comune nel lì dove c'è stato il terremoto, capito? E uscendo non avevo avuto nulla. Poi dove ce li hai gli altri? In Svizzera, 900.000 euro, perfetto. Andiamo in Svizzera, leva tutto, sequestrati lo stesso. Però non dare la condanna per quella, perché non serve a niente, capito? Per quello lui ne uscirà sicuramente pulito, tranquillo. Non è venuta 5.000 euro di multa a pagare nonna. Avanti Giulio. E io Guido, che cosa vuoi sia? Cosa vuoi sia 5.000 euro? Lui. Non sono niente, proprio niente, niente, niente. Guarda che già ne ha combinato, dai, se mettiamo tutti insieme quelle cose, le toccano 30 anni di galera, le toccano. Per pagare tutto quello che ha combinato, per carità, non va bene, dai, non va bene. Assolutamente. Tu finché ne ha. Non faccio queste cose perché è proprio affamato, perché è un disgraziato, perché è un ignorante. Ma lui non era né ignorante, perché devo dire che era abbastanza intelligente, ma era abbastanza imbecille. Voleva vivere così, facendo il gradasso. No, non va bene così nella vita, no. Ma c'è anche Valerio, va lì. Mi sento un attimo. Valerio, ci sei? Resto in ascolto, frate, facendo cosa succede. Ora con Picci. Brutto vizio. Ho detto che Picci in ungherese è una parolaccia, quindi non lo devi dire. Devi dire, sto lavorando al computer, sempre, da ieri sto lavorando al Picci, sto lavorando al Picci, non si dice. Trotte Picci. Sei la bella. Dalle mani, ciao già. Dalle mani, sto lavorando al Picci. Sto lavorando al Picci, non si dice. Che è una parola brutta in ungherese, capito? Dite stai lavorando al computer e se no sembra che stai facendo questo PC di plastica che lo stai ricostruendo. Vai Marco giù, fai tra Gianni. Ok, ciao già. Avanti Gianni, con la buonasera. Buonasera a tutti, dai. Mi stavo ascoltando mentre facevo qualcosa. Ehi, vabbè, in ungherese sì. Vuol dire quello. E beh Claudio, un vecchiato piano stavolta. Sì. Preso sangue, tutto. Adesso aspettiamo il referto, ma già sono a posto, non c'è un problema. Ma che lo vai a lavorare? Non era tardi, no? Cosa? Ho detto non era tardi stamattina, a che ora entra il lavoro? Alle 8. Oggi ho fatto dalle 8 alle 3. Alle 8, io ho fatto alle 7 e mezza da qua, a Puglia. Io non ero più dalle 7 e mezza, no? Io ci metto 20 minuti, arrivare. Dai, io chiudo là, che se no mi sta già graffiando la gola, dai, ci sentiamo. Dai, vi prendete voi, ascolto e basta, ma non continuo. Ciao Claudio, Gianni, Natalino, Valerio, se mi sta ascoltando, e poi chi c'è, Marco. Saluto a tutti, dai, grazie per la chiacchieratina. Io chiudo, dai, sono costretto. Se prende pure come vai. Ciao Marco Giù, mi dispiace se ancora uscì, No, non ti stai riprendendo per niente. Vabbè, dai, riprenditi, ci sentiamo. Buon ascolto. E lasciamo qua. Quando vuoi. Ci fa piacere se fai due chiacchiere. Avanti Natali. Sono qua. E io devo andare a prendere a mappa lo scientifico che devono arrivare da Taras. Erano a Taras. Lo scientifico, chi già lo scientifico è Marco? Sì, secondo. Ma quanti anni ha? 15 anni. 16. 16 deve compiere il 7 maggio. Ah, mi sembra più piccolo. Va bene, va bene. Ok, avanti Marco. Vabbè, doppio room. Uè Marco, capagato. E allora, tutto bene? Al solito, guarda, per carità. Bella Pasqua che sarà a me, per carità. Maledette feste. Ma io se ti sei preoccupato, io mi sono fatto mettere l'occhio, figurati. Di cosa ti stai preoccupando? Non è reperibile domenica. Ho detto no, faccio il turno completo. Dalle 7 a mezzogiorno, uscirò a mezza, ma esco a mezzogiorno. Così pranzo a casa tranquillamente. E a Pasquetta la stessa cosa. Dalle 7 a mezzogiorno, tanto ci fa il giro. A Faloscia, dove devi andare? Però adesso a parte. Quindi, a quando sono qua in via Pietrolini, c'è il mio cognato qua, sono in Valuso, qui, sia a Pasqua che a Pasquetta. Perciò noi andiamo in campagna nel pomeriggio, andare un'occhiata da voi e basta. Quindi, di cosa ti sei preoccupati? Non sei da solo. Bene, manco l'uovo mi hai comprato mamma, te ne immagini, l'uovo di Pasqua. Io ne ho fatto due. Sì, che bello, ne ho comprato a mia figlia io, vero? Io a Manuela no, perché quest'anno non ce la fa, questo mese non ce la fa, quindi ci vogliono 260 euro per il viaggio. E non è il caso che venga, magari lo farà a compleanno. Ma a Marco ne l'ho comprato, anche a Maurizio per il foto. Ho sempre guai, e con un paio di ricarica, sempre, eppure sono persone già grandi, mia figlia c'ha 30 anni, non è che, però un simbolo, va bene, cos'hai detto per io te lo compro sempre e vuole Kinder, non è guato perché ha detto che l'unico buono è Kinder, giusto? Anch'io voglio l'uovo, Natalie, è una cosa simbolica. Almeno quello è Pasqua, no? Allora l'uovo di Pasqua. Certo, il Kinder è molto più buono, chiaro, no? E anche il Lindor no, quello alle nocciole, se i gusti Lindor lo lascia perdere il Kinder. Io guardo, sono tutti perché quando ci rompono a noi basta togliere la sorpresa e ce li cambiano e il cioccolato ce lo lasciano, quindi i cioccolati li conosco tutti. No, io ci butto la sorpresa e mangio il cioccolato, perché la sorpresa sono delle idiozie. Ormai non mettono più roba bella. Una volta si vincevano cose più consistenti quando ero piccolo io. Tipo in un uovo avevo vinto un mazzo di carte, tipo Modiano, roba del genere. Carte vere, proprio plastificate, che valgono già di più. Adesso ti danno quelle catenine in plastica per bambine, proprio minchiatemi. Io mi ricordo che ho trovato anche un orologio una volta in un uovo, però era grande, me l'hanno regalato un uovo di quelli grandi. Che ho trovato un orologio dentro. Bisogna, guarda, se vuoi fare una cosa ben fatta, bisogna andare da un pasticcere e far fare un uovo artigianalmente e metterci dentro un bel oggetto che vuoi. Tipo un cellulare, un coso, insomma una cosa utile, capito? Un bel orologio, capito? Poi il pasticcere lo chiude, lo sigilla e te lo incarta nella carta bella. Così sì che c'è una bella sorpresa nell'uovo. È bello, vedi? Eia. E così è bello, mettere un oggetto che vuoi regalare alla persona e farlo fare da pasticcere, sigillarlo, certo costa di più, perché non so quanto possa costare l'operazione di fare un uovo artigianale, non lo so, non ho idea. E il cioccolato, la mano d'opera più che altro costa, secondo me. E magari poi si è mangiata i trucchi e si è truccata col cioccolato. E, sì, guarda, in certe uova mettono, a parte che sono sempre cose per bambini, mettono delle cose che sono un insulto, cioè tanto vale non metterne. Non c'è questo casino che c'è fuori, sento una voce. ho preso il filo del discorso. Cioè dico, per qua mettere quelle fesserie che mettono, meglio non metterne. Me la dà lo vuoto, l'uovo, non lo so. Oh, Bianco, per me che c'è gente, un attimo. Claudio, vabbè, dai, poi glielo dico. Dobbiamo rimandare lavoro in antenna. Sai cosa hanno fatto l'altra notte? Sono saliti i ladri sino all'ultimo piano, sono entrati dalla cabina dell'ascensore, sono andati nelle, come si chiamano, negli attici sono entrati, li hanno curati. Oh, tipo un uomo ragno, si sono calati da lì. No, è facile, capito? Non c'è, dal tetto all'attico è una cazzata. È un tiro di schioppo. Poi ci hanno trovato anche la scala perché ci hanno curato di faccia dei lavori, quindi gli è venuto tutto facile. Eia, e tu dovevi fare un lavoro all'antenna, così è. So che adesso perché non lo fanno? Incazzerebbe il padrone dell'attico. No, non lo faccio perché io la chiave me l'avevo fatta di nascosto, ho fatto il doppione perché non me le volevano dare. Meno una volta che c'erano le chiavi, non è preso che così almeno controllo l'antenna e poi ho fatto il doppione, capito? Ehi, hey. Hey, ho visto che esiste una macchinetta. Una macchinetta, un affarino piccolo. C'ha due sparini, non so, si infila nella cosa, vibra e apre la serratura, lo sai, apre tutti i pistoncini. È roba da spie, non so dove l'avevo vista. Quello è bello comprarsi, mi. Non hai bisogno nemmeno di fare doppione. lo so, non le maglie non sono di quei tipi. Adesso per dire, se dovessero sapere che ci devo le chiavi a pigliare a me, Marco, perché le porte sono state aperte con la chiave, a quanto pare, stanno pensando che sia un curatore che ce l'ha fatto il doppione, capito? È probabile. Amici dei muratori anche, tanti muratori lo sai, sono sempre un po' terra a terra, non per fare il classista. Magari hanno dato la soffiata all'amico, l'amico ladro, mi fai la scala, fai tutto. Ci abbiamo pure le chiavi, capito? 2 più 2 fa 4. Sì, perché non ci sono segni di scala, capito? E molta roba gli hanno rubato, tutto. Oro, argento. Questo non lo so, c'erano i carabinieri l'altro giorno sotto casa, guardano i campanili, detto cazzo senza che ne ha meno. Perché state cercando, mi ha detto, e volevano salire sull'attico per vedere da dove potevano essere entrati, capito? Eia, lavoro facile l'hanno avuto, con la scala poi. Bene, bene. Io parlate un po' voi. Ma io lo so di sicuro che c'era la scala, perché un paio di giorni prima sono salito io, perché c'avevo il radiale appendito lui, ed era tenuto solo dalla lenta, e sono salito su, ho preso quella scala e ho detto, tanto non era giù mai niente, sono salito con quella scala e ne ho tolto il radiale, prima che cadesse su qualche macchina, qualche cosa, anche se pure mi si pieghi, sono pesanti, capito, e ne ho tolto. Ehi, immagina se proprio cade l'antenna in strada su qualche macchina o in testa a qualcuno, mamma mia, magari di punta, lo trafiggi dalla punta, dalla testa fino al sedere. Ma tu hai volato l'antenna, ragazzi. Per esempio, sul forum Roger K parlavano anche di assicurare le antenne. Qualche radiatore, qualche CB l'aveva fatto, assicurare, andare all'assicurazione, assicurare l'antenna, cioè se dovesse cadere per via di tornadi, coso, no? È assicurata, capito? Se fa danno a qualcuno è assicurata, tu non paghi nulla, paghi l'assicurazione, ma penso sia una fesseria per un'antenna. Sì, ma siamo attaccati anche duro di buona ringarire. No, c'è l'assicurazione. Se cade l'antenna e infilza qualcuno, sei assicurato. Cioè l'antenna tu l'hai fissata bene, no? Però se malauguratamente una tromba d'aria li strazza tutto e la butta giù, sei assicurato. Non tu non c'entri nulla. Ma sto male, così non ha preso l'antenna, non i lampa di roba. per cui non è che vada a cercare tutti quelli sono i padroni, eccetera. Allora, la volta che ha fatto quel vetro, quei muratti di che c'era, c'erano tutti i gattaretti e i secchi della vernice vuoti sopra al tetto, come ha fatto quel vetro, ne l'ha buttati tutti sulle macchine. È arrivato il muratore la mattina, io l'ho visto e ho detto, ma voi ci sono più secchi, no? Tutti sulle macchine, hanno graffiato le macchine, cose sulle macchine, e sulle macchine sì, dunque la c'è il calcinaccio su questa macchina, come è caduto, c'era il calcinaccio secco dentro, è caduto sulla macchina, l'ha graffiata anche. E dopo 5 minuti intorno, questa era l'uscita quando stavo andando a portare il taglio, 5 minuti intorno non c'erano più sicchi, tutti tirati se li avevano. E poi li ho trovati tutti imboscati nel taglio già lo sa, dove proprio dove c'è la porticina, dove si è venuta qui tu, la tarica, quando abbiamo aperto la terra, dove c'è la porticina, erano tutti imboscati lì sicchi, tutti spaccati. Ed erano nascosti tutti quanti per non vederli. No, io l'ho predetto a condomini. Poi magari i muratori ci vengono e ti danneggiano l'antenna. Quello lì sta molto meglio. Aspetta che c'è qualcuno che sta chiamando. Avanti, chi chiama Marco? Chi è? Il profeta. Avanti, profeta. E dove ti trovi, profeta? Buonasera. Già ne do più da questa parte. Vicino a Bonorba. Ah, con la corte, ho capito. Sei portatile, ma con l'antenna sua. E stai arrivando a Santiago 3, Radio 3. Qua, a Sassari. Tutto bene, qualche bene. Avanti, Natalino, prova a vedere se l'ascolti tu. Io non l'ascolto. Il profeta è... parla dalla stazione di solito, zona stazione. Oggi è in trasferta. Ciao, se mi ascolti. Io purtroppo non ti ascolto qua, sei proprio nel QRM. Dai, ciao profeta, ci sentiamo, siamo qui quando vuoi, non c'è problema. Ciao, ciao. Sì, guarda che è l'ex Condor. L'ex Condor, cioè prima che entrassimo nell'84, lui entrava con il nome Condor, zona grossomodo stazione. Guarda che ci abbiamo già parlato già, non ti ricordi? Vagamente me lo ricordo, sì, mi ricordo che era un portatile, davvero. Però la stazione, cioè dove lui arriva bene, da casa arriva bene, però qua non lo sento proprio, cioè il QRM lo copre, troppo basso. Ok. Dove ha detto che a Bonorva o dove? Alla corte, così è? Sì, alla corte, ho capito male io, ho capito a Bonorva io. Che c'è a Bonorva? Arrivare. Eia. Vediamo se è rientrato Gianni, Claudio, che aveva gente. No. Vabbè, dai. Parliamo tra di noi. Sì, ogni volta che mangio. La pressione bassa mi fa bloccare, mi affluisce il sangue allo stomaco, no, e mi viene un po' di sonnolenza. Oggi mi sono comprato quelle alette piccanti, mi ero già fatto una magnata, ma in una confezione me ne ho mangiato. Eia, guarda, quelle che prendevamo noi però erano in busta di alluminio, con la scritta Durango, e credo che siano della Findus, non so chi è. Proprio Durango c'è scritto, ed è disegnata però la busta, è busta di alluminio, no? Quella è veramente buona, mamma le prendeva, adesso invece è un bel po' che non le prende, forse si è un po' stancata. Io prendo quelle arena, quelle proprio buone, sono buonissime quelle arena, costano un po', però erano in offerta a 30% di sconto, praticamente me ne ho preso due pacchi perché mi piacciono bene, questo è il mio collega, già fanno male, ma anch'io ti pare i gatti tuoi, fanno male. E gli ho detto guarda che mi piccate fa male, mi ha detto, e vabbè, già mi piccate afrodisiaco, è vaso di lattatore, tu la vedi tanto negativo, la vedo ancora positivo, non è così la tale. Allora, mi sono comprato di quelle alette di pollo, quelle piccanti, quelle tipo messicane, condimento, e no. E questo mio collega alla casa mi ha detto, ai già, mi fanno male. E ho detto io una volta ogni tanto, poi sono afrodisiache. Oltre che c'è la afrodisiaca, c'è anche vaso dilattatore, perché cazzo c'è il peperoncino che dilatta le artiglie, eccetera, eccetera, fanno bene. Tu la vedi dal lato negativo, io la vedo dal lato positivo, e la poi sono ben buoni. Ehi, tanto a me tutto fa male. Se stai a seguire la gente, tutto fa male. Fritto fa male, piccante fa male, tante altre cose fanno male. Io non dovrei mangiare latticini perché sono ricchi di calcio, io ho fatto dei calcoli, ma se mi togli i latticini mi suicido. Io vivo di latte, di formaggi, di tutto, di yogurt, non potete capire, quindi i latticini per me sono vitali. Quando vedo i calcoli, pazienza, me li farò bombardare, non lo so, sperando. Guarda, mi è dispiaciuto, è morto Michaletto, proprio mi è dispiaciuto, era vicino a casa, 100-150 metri ero già lì. Chi è questo Michaletto? L'ho già sentito nominare. Ah sì, è vero, è vero, è vero, me l'ha detto mia moglie che è morto, è vero. Sì, io sono andato con un infarto, gli è venuto mi pare, no? Vabbè, anche tu te l'hai scappata bene, dai, manco mai. Non pago neanche nessuno. Adesso ho trovato una signora che portava il cane, sempre noi ci trovavamo la sera, era un bel che non la vedevo l'altra sera, ho detto, beh, buonasera signora, già era un giorno che non la vedevo, e per poco la signora non ci lascia le penne, mi ha detto, uia, e cosa è successo? Purtroppo mi hanno trovato un cancro, ci volevano 3 mesi qua per farlo, poi ci volevano per farmi le visite, poi ci volevano 260 euro, io sono andato a Milano, in poche ore mi hanno fatto tutte le visite, chemioterapia, tutto qua, subito tutto qua che hanno fatto, tanto è vero che è ancora in piedi. Perché non stava bene, era con la figlia, meno male. Proprio dentro l'ospedale, tac, un embolo. Devo scappare in bagno. Ma vengo una trombosi, un trombo, cosa sto dicendo? Un trombo appunto. E Pina, con la carina, la tagliata. Quella è Irene. Quella è Irene, sì. No, lei grazie sta bene. No, Pina con la... diciamo quella la più carina che c'è. Praticamente ha avuto quest'embolo, è stata in coma, praticamente però non era un coma profondo, perché se gli parlavi gli faceva sì di testa o no, capito, con gli occhi chiusi, però ti rispondeva con la testa al primo giorno, poi il secondo giorno ha aperto gli occhi e ha cominciato a parlare piano piano. E poi piano piano si è rimessa a posto, ma mi dice sempre che è sempre stanca, che fa 2 passi si stanca, che non è più come prima. Non risponde manco al telefono, molte volte perché non ha voglia di andarsene a letto. Cosa ti senti stanchetto? Cosa ti ha detto la tariffa? È roba di circolazione. E io mi sono fatto da poco, come si chiama, quell'esame, vabbè, l'esame è quello che fanno le bene per vedere se sono là, se non mi viene il nome. Da Urigo, e mi ha trovato un'arteria del collo del piede che era ben ostruita e una della gola che al 20% sono ostruite. Sì, ma detto, non è tanto che sia, perché non è tanto, però è già intaccata la... bisogna stare attenti che non peggiori, capito? Quindi se c'è il colesterolo alto, triglicerid, questa roba qua, infatti sto prendendo le pastiglie per queste cose qua. Poi io devo andare a chiedere a Marco, ma non risponde al telefono, dovrebbe essere che c'era a scarico e non so a che ora arriva, ma c'è una guerrigliana, vai a prenderlo perché arriveranno verso le 8 più o meno da Taos. Adesso provo a telefonare a vedere. Ah, l'agraria, lo scientifico che c'è di fronte all'agraria, ti basta a casa. In 2 minuti sono 20. Ecco, cuomani, vai. Queste siete due cuocomani. Tre cuocomani. Avete fatto in 10. Ho detto siamo tre cuocomani, ci sono anch'io. Io sono siete in 4. C'è pure Claudio. C'è gente, sentiamo dopo. Me ne dico la classe, gente. Eia, anche più c'è, di più. Alla Britella la seta. Eia, a Britella sono gestando la tapparetta. Ma faccio gente duro di capo a mio figlio misurino. Un misurino. Ebbene, niente male. E non sono troppo che fa Marco. Lì, allora ti spiego, lì più avanti del bar, lì c'è uno, un termoidraulico, è lo zio della mia ragazza. Sono andato a sistemare il computer, c'era anche ieri. Ah, sì. Eia. C'era ieri, su ieri avevo un problema, praticamente ha una stampante un po' vecchiotta. Però una stampante vecchiotta di quelle buone. E mi stava dando errore su Windows 7. Perché mi installava solo con il sistema operativo XP a 64 bit. Vabbè, niente, poi ho aspettato, ci ho messo un po' e ho installato la stampante. Praticamente aveva dei virus nelle mail. Allora l'ho dovuto resettare. Comunque l'ho tutto messo apposta, c'era una bombetta. Ho voglia di coricarmi, guarda, sempre sto facendo come il gatto è sempre coricato, non so se sia depresso, cosa c'ha, sto giorno l'ho coricato sul suo cartone, sta, è meno vispo di prima, e io lo stesso, ci abbiamo la stessa malattia, deve essere. Ma sta mangiando? Come già? Sta mangiando tranquillamente. Sì, quello sì, ma è molto dormiglione, hai capito? Sa, sul suo cartone ha dormito tutta la sera, no? Tutto il giorno meglio, poi di notte rompe le palle, cioè gioca, fa casino, fa rumore, gioca con queste palline di gomma che rimbalzano. No, anche l'una dorme un bel, se ne è mia madre, guarda, non so se dorme di più l'una o mia madre, ma mi sa che dorme di più mamma. Guarda, l'altro giorno c'ero, io ho dormito tutta la lì. Tutti e due i gatti addormentati tutto il giorno, ho detto ma oggi ho un dormitorio e a casa. Cazzo da baraluccio. Oh, tu devi sapere che il gatto simula la caccia la notte per quello che sta sveglio. Eia, vabbè, però vorrei che sia, che fosse più attivo, dai, per venisse da me, così l'accareccio. Infatti, appena l'accareccio ronfami. Quando comincio a carezzarla, anche che sta un po' dormicchiando, si mette a ronfare. Bene, dicevo già, mi è dispiaciuto di Cosomi, di Migaletto, avevo lo studio privato in via Gorizia, praticamente io a 150 metri da casa ero lì, mi aveva fatto una volta o due volte fare l'ecografia in zona Rini, ma perfetta, un maestro, cioè vedeva l'impossibile, vedeva ogni minima cosa. La forma della vescica, tutto quanto. E invece pensa che all'ospedale civile non mi hanno visto il calcolo da 13 mm, dicevano che non c'era niente. Invece dice, caspita, un bel calcolo, ma diametro massimo 13 mm circa. poi mi ha visto calcoli anche più piccoli. Guarda, molto molto accurato, molto gentile, molto cordiale. E non costava nemmeno tanto per essere un privato. Ma mi è dispiaciuto che sia morto, sì. Il nome era Vincenzo, Vincenzo Migaletto. Vabbè, al muro ho parlato. No, scusami, stavo scrivendo un messaggio. Sì, lo conosco bene perché ho fatto qualche ecografia anch'io, anche qualche altra. Ed era anche molto più onesto di tanti altri, oltretutto. Poi è molto cordiale, non era per niente scorbutico, molto cordiale, faceva di tutto, faceva lastre, ecografie, risonanze, c'aveva una bella apparecchiatura. Purtroppo i migliori se ne vanno sempre. Stava guidando, mi pare, verso Nuoro, verso Marti, se non mi ricordo, e dice che ha accostato perché si era sentito male, così pare, l'hanno trovato già morto. Invece dall'altro, a Piazza dei Cigni, come si chiama l'altro? Non ci sono mai andato. Come si chiama? Mi sfugge il nome, io. Urigo. Mamma è stata Urigo, io non ci sono mai andato lì. Vabbè. Speriamo non ci sia bisogno, tocchiamo ferro, tocchiamo anche altro. Ecco. Anche io sono andato tante volte da Urigo, però è caro di fuoco. Ascolta, ma da Urigo c'è una persona che ti, quando ti fanno l'ecografia, o più persone? Una all'entrata, quando tu arrivi all'entrata mi fai vedere che cosa devi fare, ti dai l'impegnativa e loro praticamente trascrivono, poi ti chiamano loro. Entri dentro, ti fanno tutto, poi ti chiamano per la risposta. E quando ti danno la risposta devi pagare. Eia, pensa che sulla Nuova Sardegna c'erano 57 messaggi di cordoglio per questo Migaletto. Amici, colleghi, parenti dell'ospedale, i condomini, 57 messaggi di cordoglio. Figurati quanto era conosciuto. Una persona del genere è conosciuta. Da noi, per dire, viene sempre, come si chiama, non so se sei mai stato, va, mi sfugge, Bandiera, il cardiologo. No, quello cardiologo no. Tocchiamo sempre ferro, per fortuna non ne ho avuto bisogno. No, ero andato da un cardiologo, però più che altro, sai perché? Perché ho delle extrasistole ogni tanto, ma sono di origine nervosa. Per cui quando faccio l'elettrocardiogramma non ci sono mai, sempre perfetto. Capito? Solo quando sono a casa, che ne so, che sono a letto, certe volte, sai, l'ansia che mi viene, mi viene il battito, turun turun turun, no? E fa praticamente battito ravvicinato e poi pausa compensatoria. Oh, riprendo dalla macchina, dai, che va. Ci sentiamo dopo dalla macchina. Ehi, Gianni, Natalino, mi già lo sai, l'extracistole, no? Due battiti ravvicinati, no? Fa tun tun tun tun e poi pausa compensatoria, no? Prima del nuovo battito. Mi sa che l'asino della crucca è una medicina universale per tutti i mali, eh? Una passata, dice, vedrai che torni anche giovane. Eia, Claudio, c'è gente, riprendi Luca. Io dopo vado, scappo, se vado a cena. Ok. Ma a cena fuori vai, beato te. No, casa della mia ragazza. Lo so, però beato te, dopo la cena c'è il dopo cena, no? Ah, oh, no, c'è la mazza prima. Eia, bene. Ma dicono Natali che, diciamo, fare l'amore, chiamiamolo in un modo poetico, dopo aver mangiato sia pericoloso. Vero è, perché dice che tutto il sangue affluisce allo stomaco e se ti agiti un po' troppo, diciamo, ci possono essere degli scompensi. Ah, non so, qualcuno aveva detto che bisogna aspettare un po' perché il cuore è molto impegnato per la digestione. Quindi quando uno fa quelle cose, no, che insomma si agita tanto, può essere uno scompenso, non lo so. A parte che io personalmente quando mangio mi sento pieno, no, mi viene abbiocco, non riuscirei nemmeno a farlo, capito? Io devo trombare a stomaco vuoto, in poche parole. Ehi, ho comunque stomaco vuoto, quindi se c'è una ragazza che vuole andare a cena, prima si tromba, poi si va a cena, non il contrario. Ma quella prima vuole mangiare, sennò poi non me ne dà, capito? Le ragazze sono così, prima vogliono qualcosa, poi ne danno, sennò non ne danno. Uccellate sui denti! Bello questo, caspita, uccellate sui denti, bello, bellissimo, ma lo voglio segnare questo termine. Segna, segna. Mia quel pedrasta di pomponi, o mi? Oh, yeah, yeah. Ebbè Antonetto, come stai? Novità di tuo fratello? Diventa la mattina alle 3, quindi sono in galera alle 3 in poi. Rientra a casa alle 3? Sì, altri domani sera. Hai detto Pompo, non si capisce alla radio. Perché? Non mi senti bene? Buono, comunque c'è la matta, l'avete parlato in due. Ho detto che abbiamo salvato alle 3. Mio fratello, chiamata lì Santoni e anche a Luca. Ah, grazie, grazie, grazie. Antone, non è che sia chiara chiara, Non ho toccato nulla. Chiara, non lo so. Da io non ho toccato niente, non è che avanti ieri, fino a di tu. Vedi tu, dove stai andando adesso? No, di tuo fratello, non ho capito quando rientra a casa. Domani sera alle 3 con l'ambulanza a casa di Giovanna e lo tengo io tutti i giorni. Ah, domani sera alle 3, io avevo capito il 3 del mese che verrà. E quindi sei come essere in galera, così è. Esatto, sì. Ma spero che faccia turni anche Giovanna, sì, non è che ci devi stare tu 24 ore, no? Ah, boh, non lo so, vediamo adesso domani, come mettici d'accordo. Un casino, mamma mia, un casino. Perché giù già tu dovevi, hai fatto molto anche per tua madre, nel suo tempo, adesso pure tuo fratello, mamma mia. Bisogna accudire pure tuo fratello, un casino, Se non avesse mai toccato quella cosa lì per un anno intero. Per l'appunto, infatti. Oh, yeah. Vabbè, ognuno la sua croce diceva quello. Cosa vuoi che dica? Mi porto dalla bar e bevo la birra, l'ultima, questa sera poi se la piglia in culo. Faccio un mese di dieta. Anzi, un mese, ma tocca a lui. Ah, così è Nathalie. Tutte e due, quindi devi stare 24 ore su 24 presso a loro, così è. Aspetta, boh. Ma Antone, tu non hai detto che doveva essere trasferito a Tiesi o non so dove? A Tiesi, no, portato a Sassari da Tiesi. Cioè, da Tiesi a Sassari, che mi devi contare adesso. Buonasera, sono entrato. Buonasera anche a lei. Cazzo, dove sei trovato? Ma dove sei? Sassari, sì. Sono qua sotto, sto uscendo dai parcheggi di Decathlon. Ah, e quello sei, no, non vuoi più 29,5 a bella amplificata. Antone, già lo sai, hai fatto di tutto yoga. Bueno! Ah, meo, un cavolo, Cosa ti sei comprato, Eugenio? Tutto Decathlon? No, a dire la verità no, non mi sono comprato un cactus. Ho mangiato e basta. Ah, poco compreso, non eri proprio da Decathlon. Sei andato a mangiare nell'altra struttura? No, sono andato anche da Decathlon. Sai che c'è questa roba, mi ha un po' stufato. E tu cosa cerchi di tanto particolare? Cosa ti piacerebbe? Ma non lo so, qualcosa di diverso, ma è sempre la stessa roba. Un bel coltellaccio come quello mio ci vorrebbe. La brasiliana ci vuole, la brasiliana che passa. Ti devo anche mangiare anche il gelato. Quello lì prima o poi te l'ha fatto Marco. Aiù, guarda, quel coltello mi era costato un bel mix, c'erano ancora le lire, un centinaio di mila lire mi l'avevo pagato. O cento e pochi spiccioli. Aiù, facciamo l'affare. coltello e baracchino, tutto a 150 euro. E beh, che coltello ti servono quelli anch'io, Eugè? Ma col cambio, il coltellaccio quello uguale a quello di Rambo, che non è uguale quello di Marco, però è bello lo stesso, mi piace lo stesso. Allora, quello è un coltello artigianale fatto in Spagna ed è simile, non identico, ma simile al modello Rambo 3. Guarda, non l'ho mai usato, pensa, da quando l'ho comprato me lo sono solo guardato. Il fodero in pelle, pelle vera. È bello. Io originale fatto a mano ho il panga dei Masai, della tribù dei Masai. Bellissimo. Comunque ho il coltello proprio e ti ho fatto. Tu Antonio che coltelli hai? Ne ho parecchi di coltelli, ecco perché li voglio fare fuori, ma peraltro. Te li guardi e poi te li scegli, quindi io non c'è problema. Ne ho parecchi di quei coltelli, capito? Siccome non voglio tenere i coltelli con mia nipote qua, per sicurezza, e anche con mio fratello, quindi c'è un... mi sembra che sono 10 o 3 coltelli tipo Patavega, una cosa del genere, che mio fratello faceva collezione, capito? Te li guardi, te li scegli e poi lo vediamo, dai, non c'è più paura quella. Capito, tipo patadese sono e simili. No, quale ce li ho. Sto cercando proprio quello uguale a quello di Rambo. Ma quale Rambo? L'1, il 2, il 3 o il 4? Vabbè, i primi tre erano a coltello, l'altro erano macette. Ah, capito, coltello di quelli tipo pescatore, no, cosa del genere. Ho capito, c'è il foro nella lamina e cosa del genere. Ho capito qual è, no, ma non di quelli. Ma questo se tutto vuole fare andare in natura, sono quello roba militare. No, assolutamente, non si va in galera, sono strumenti di libera vendita. La libera vendita c'è e li puoi tenere a casa. Poi c'è, vabbè, c'è una legge che dice l'escursionista può portare ogni tipo di coltello, punto. Non mi ricordo qual è, però dice così. Quando tu fai escursioni, che vai in montagna, nel bosco, quello che vuoi. Capito? Ho capito, cioè, ma io vorrei quei coltelli che sono debilitati, già ho capito io, già ho capito, ma non c'è di quello lì, no. Per niente, è andato male con me, allora pazienza, sono regalati. A posto di tutto di me, per esempio, per sicurezza, non per altro. Questo che magari mio fratello ha con te di mio cognato, non per altro, Ma se quello rientra, perché non so come la piglia lui. Mi dico se voglio prevenire e curare. Oh, Natali, Antonio, ti capisco poco, la voce è sempre tutta... la modulazione non è bella, non è pura. Boh. Eugenio, ma tu lo capisci bene a Pomponio? No, Antonio, lo stavo per dire anch'io. Cosa hai fatto, Antonio? Niente ho fatto, nulla, non ho toccato niente. Ho lasciato tutto com'era, già da altri giorni. Ho dato ieri, ho dato avanti ieri, sempre la stessa cosa. Magari perché parlo veloce, sarà quello, non lo so. Comunque lo sapevo tutto com'era, non ho toccato niente, nulla. E ora basta un po' l'amplificazione? Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lascia così, che è molto meglio. Perché c'è troppo forte e si impasta un po' il tutto. Ah, la petrocamera quella, vabbè, ho capito. Anche perché la camera è mezzo vuota, no, per l'altro. Hai giù preso adesso. È la petrocamera. Come ormai ho tutta la modenza che c'era. Fa l'effetto camera vuota più che altro. Tutta roba andare in garage più che quindi. Qui non vogliamo sai che ci vive ormai le nipote, quindi. A un certo punto la baracchina è molto difficile usarla, molto difficile. A meno che questi giorni ci andiamo a mangiarci la pizza, se ne avete voglia. Dopo le nove, che è stato fisso alle nove, quindi. Ma perché tua sorella dorme tutta la sera lì, qua di porte? E allora, dorme quindi, ci ha detto qui, ho visto la... ti faccio una foto della camera, Come l'ho fatto? Aspetta che te la mando. No, già l'ho visto che se... Ma lei dorme tutto il giorno perché è lì? Com'è che non puoi modulare? No, non posso parlare a baracchino, solo che io devo stare... devo stare con mio fratello giù. Quindi a un certo punto modulare sarà molto difficile. Io rientrerò questo per mezzo 10, quindi mia nipote sarà già a letto, cosa faccio? Se le baracchine alle 10? Non saranno. Hai capito? Comunque sia, la camera già è eseguita, almeno come si deve, non molto, vabbè, con poco ci è rimasto, ce lo butterò adesso. E io. Basta chiamare, la pone 8 metri di loro, intanto io ho finito, mi giù. Se vogliamo andare a mangiarci una pizza, andiamo, così non c'è nessuno. Questa volta vengo. Perché noi, vabbè, ci troviamo alle 8 in un punto, ma è troppo presto, cioè dovremmo andare un po' più tardi, alle 9, come hai detto tu, capito? Riunirci alle 9 e alle 9 e mezza essere in pizzeria, capito? Così si può anche fare. Ci sto. Non ci sono problemi. Ciao, Clara, saluto per sentito, ben entrato. Come volete voi, ditemelo voi, io non ho problemi. Intanto io da domani ho mio fratello giù, basta avvisarmi prima. Se volete andare in pizzeria, mi dite verso le 9, io sono libero. Andiamo in pizzeria, mangiamo e... Tanto io dormo qua su, poi c'è anche mio nipote qua. Io appena giù e c'è Giovanna che fa... Cioè, facciamo i turni, capito? Non sono qua io che c'è gente, già mi sto ascoltando. 150, baracchino al coltello? Sì. Quale? Il Jopix. Sì, quello che volevi tu. E come che lo pagassi 100 euro il baracchino, mi? Già lo so. Che bello, Jopix. L'avevo preso subito io, eh? Mi avevo messo incominciato. Giuro, va. Quello che voleva... La foto che tu mi hai mandato. L'ho fatta magari a... Quando i simboli, vuoi lasciare 70 euro? Ma quanto sei scemo? Ma tutti giù, Gavino, se hai avuto soldi l'ho preso io per 120 euro di quella partita, perché è regalato tutto quel prezzo, è regalato. E prendi Eugenio, dai, un attimino. Va bene. Io ci penso, Marco, ci penso. Sono lì lì per fare questo affare qua, però vediamo un po', dai. Poi se non sei convinto anche qualcosa di meno, dai. Vabbè, dai, prima lo devi vedere innanzitutto. Lugusietto. Più che un coltello è una spada, non è un coltello, è una spada. Bene. Riprendi la lì. Picchialo con la pompa. Ebbene, non riprende nessuno, sempre io devo parlare, ma giù compreso. Giorgente, io, cazzo, se lo stai dicendo, sono qua, ti sto ascoltando, tutto quello che dite per me va bene. Ciao ragazzi, buona cena, io scappo, ciao, alla prossima. Ma fate la punta, Gianni. No, mica sempre sveglia. Mi ha dato così. Vabbè, salutami allora, la punta. Ma devo te fare l'apis? Eia. Tu salutami la tapparetta, Va bene, ti saluta anche Cattarella, no? Misurine. Misurine, cattiva. Gabazzisi! Vabbè, dai, ciao, ti ammazzo, mi sembra lui, dai, alla prossima, ciao ragazzi, ciao. Ehi, Massimiliano, a dopo. Dillo a Massimiliano, che quando fa la rustica già passo da lui. Ehi, va bene, se tu hai voluto la rustica, va bene. Non li voglio, voglio pancetta cucinata bene, possibilmente sottile, ciao, è senza grasso, bravo, se no è grasso, no, non li posso mangiare diverso, senza grasso, bravo, dai, ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao, quello bene, sentiamo, vai Marco, riprendete voi che sono qua. Vabbè, capaciso, faci dosso. Gianni, hai ripreso dalla macchina? Doppio room. Manco acceso. Cosa ha fatto Gianni? Eia. Vabbè, dai, non è obbligatorio, tanto più che sono quasi saranno le 8, adesso è ora del telegiornale, mi. Marco, ma mi ascolti ancora, sì? Caspita, benissimo, 8:30. Ah, ok, ho detto che si è fatto è andato a prendere il figlio in macchina da scuola e non ha ripreso dalla macchina però. Bene, bene, dai. Adesso vediamo cosa ha combinato Trump. La vedo brutta con questa Corea del Nord che ha missili nucleari, ma speriamo di no. Stasera tutti davanti al televisore, Natalia, sovrano durato Eugenio, ma quando... Eugenio, ripeti. Ho detto, tutti davanti al televisore stasera. Cosa c'è stasera? Stasera tutti davanti al televisore, ho detto. Ehi, ma perché? Cosa c'è stasera di particolare? Tanto non si vede il televisore, perché? Ho detto, perché dietro non si vede. Vabbè. Ieri notte invece mi sono guardato le femmine che ci picchiano, mi. Kickboxing femminile, interessante. Basta lì, ti ho sentito e se la porto fuori, scusa Luca. Teso Natali, ti ha sentito vicino a Brotores? Via. Ui, è quando ci penso. Sì, quel coltello l'avevo pagato, l'avevo preso da Pasquali. Da Pasquali, convinto di fare chissà che cosa. Invece poi, ma dove te lo vuoi portare? Quello va bene per tagliare l'anguria, va bene, l'anguria grande. Ma se mi vedo in giro con una cosa del genere, mi pigliano per scemo. Io quello lo voglio, me lo torno in capo, hai capito? Da sovramodulato. Ma se sono portatore, come faccio a sovramodularlo? Ehi, vabbè, però Natalia, aspetta che c'è Eugenio che sta parlando, non lo stai sempre coprendo, dimmi Eugenio. Niente, vabbè lo stesso, non c'è problema. Eia. Bene, bene. Vabbè, dai, io andrei a vedermi un po' di telegiornale, sempre che non sia troppo tardi. Che ore sono? Ehi, dai, vado a vedermi il telegiornale, dai, un attimino. Lascio tutto acceso qua, dai. Ciao Eugenio, ciao Claudio, ciao Natalino, dai, qui lascio comunque tutto acceso, dai, nel caso. Ciao, ciao. Ciao Marco. Cambio! Vabbè, banda vedete tutti, ora tappignara.